24 mattino. Allora è giunto il momento dei cani e dei gatti, il momento che attendete davanti a noi, collegato a Milano, veramente come una proiezione olografica. C'è l'uomo che è già una leggenda, il fustigatore del costume italiano, c'è Oscar Miau Giannino. Miau, buongiorno, buongiorno fratello. Con noi sempre, lo ricordiamo a chi si è messo a seguirci adesso, Luigi e Aurelio De Laurentiis stanno raccontandoci delle loro super vacanze di Natale, ma anche dell'Italia, del costume, della satira. Oscar, lo sai che De Laurentiis è furibondo col sistema Italia, per cui non si riesce a fare uno stadio, non si riesce a neanche a ristrutturarlo. Ora voglio spiegare questo paradosso, per cui voi non ha, il comune non ha molte disponibilità e non può investire direttamente nello stadio, però neanche voi potete farlo direttamente. Com'è possibile? No, il comune non ci permette di investire nello stadio per riparare quelle cose occorrenti, no? per certo, poter per renderlo funzionale, perché la Corte dei Conti non ci farebbe mai rimborsare i soldi dal comune. Allora il comune non investe, dice che ha aperto un finanziamento con il credito sportivo, ma in realtà di questo finanziamento io ho visto utilizzare ben poco. Ogni volta lo annunciano, sono due anni che annunciano, ma pensa poi l'assurdità, no? Adesso ci saranno le universiadi. Sì. Con più di 200 milioni di investimento. Vogliono investire 4 milioni per rifare la pista d'atletica, ma dico fatela da un'altra parte. Mi avete impedito a me, nel mio progetto che avevo portato, che loro non hanno nemmeno considerato, c'era la possibilità di portare tutto lo stadio a bordo campo. Immaginate la potenza di un tifo così caloroso come quello di Napoli, che cosa era veramente il 12esimo, il 13esimo, il 14esimo, il 15esimo giocatore in campo. Non ve l'hanno fatto fare. Non ce l'hanno fatto fare, perché in realtà poi il sindaco credo che venga allo stadio ma sia tifoso fino a un certo punto. Noi interveniamo su questo. Oscar, qual è il tuo pensiero del giorno? No, io voglio dire una cosa, aspetta, io voglio rimanere in materia. Possibile, vai. De Laurentiis, dopo tanti anni, quando si fece la scelta, secondo me sbagliata, la criticai allora, poi però sono curioso di vedere a distanza di tempo qual è il suo effetto. Quando le autorità italiane di mercato consentirono ad alcune squadre di quotarsi senza impianti, a differenza di quello che è avvenuto in grandi altri paesi del mondo, io dissi senza impianti si è appesi a un flusso di cassa che dipende soprattutto, come inevitabile, dagli eventi sportivi. Però mi sembra, e lo dico a proposito di quello che segnalava lei, come su gli impianti sportivi, le società di calcio e i soggetti pubblici a cui rimangono in carico continuano ad avere un rapporto problematico, che però per una società significa intaccare in maniera considerevole le proprie possibilità, ovviamente, di mettere a frutto e a reddito quello che fa, i suoi risultati, il rapporto con il tifo e così via. È possibile che a distanza di tanto tempo da quella decisione, secondo me sbagliata, ancora non si capisca che il rapporto tra società e impianto deve essere diverso da come è stato disciplinato in Italia? Io sono perfettamente d'accordo con lei, ma bisognerebbe già, come ho ampiamente spiegato, rimodulare o abolire la legge 91 del 1981, perché dall'81 al 2017 quanti anni sono passati, primo di tutto. Secondo, bisognerebbe anche capire che il mondo si è virtualizzato e si virtualizzerà sempre di più, quindi bisogna riuscire a capire come trasformare questi stadi in qualcosa d'altro, in qualcosa che possa interagire con lo spettatore, creando un interesse in più. Veda, questo concetto della moviola in campo, questa va, è qualche cosa che già ci aiuterebbe a questa, diciamo, spettacolarizzazione, perché lei immagini, certo, come potrebbe momenti partecipare se noi potessimo fare la disclosure, mentre invece noi creiamo, siamo gli antesignani, i primi a utilizzare la VAR, però non si può sapere quello che è successo. Cioè, io ho detto, ma scusatemi, cara Federcalcio, ecco perché poi la Lega di Serie A dovrebbe uscire dalla Federcalcio, non ha senso rimanerci, ma non per questo motivo, ma per tanti altri. Dico, ma tu Federcalcio, perché dopo una settimana, dopo 15 giorni, dopo un mese, non mi fai vedere il risultato per il quale è stato assegnato o non assegnato quello che avete fatto? A me sembra un'assurdità. Cioè c'è sempre questo discorso quasi contrario alla, al concetto veltroniano: non sono più dei club, ma sono delle società per azioni con finalità lucrative, concetto ribadito dalla UEFA con Oscar. Il fair play finanziario. No, no, è inconcepibile. È abbastanza inconcepibile, anche perché poi le forme attraverso cui poi fu realizzato quel concetto, che è alla base della svolta, i cui esiti secondo me sono stati negativi. Lo dico, si poteva giudicare anche positivamente quella all'inizio, le intenzioni, ma gli effetti sono stati disastrosi, quindi vuol dire che le intenzioni sono andate malissimo, anche perché, ricordiamo per chi ascolta, molti dei problemi che poi sono stati alla radice di problemi sistemici del calcio italiano derivano dalla serie di, tra virgolette, eccezioni al codice civile o al semplice dovere per qualunque altra società, che furono il corredo inevitabile della decisione assunta con quegli interventi ai tempi di Veltroni, di cui la disciplina per cui si aveva un tempo molto lungo per essere in regola con le contribuzioni, di lì un occhio chiuso particolare ed eccezione sui criteri di redazione dei bilanci, da cui deriva poi secondo me la pratica molto discutibile di doverli mettere in attivo patrimoniale con finti valori di giocatori acquistati solo a questo scopo e che in realtà non entrano mai in campo, cioè tutta una serie di problemi, mentre al tifo arriva solo il calcio scommesse e così via, che però per chi si occupa delle società di calcio come società non possono che arrivare alla conclusione, io in cui sono molto d'accordo con quello che ha detto il presidente Laurenti, bisognerebbe riprendere dall'inizio con l'impostazione e dire: signori, ammettiamolo, è stata sbagliata in questo, questo e questo, e questo e questo forse si può salvare, ma o ricominciamo da questi fondamenti: che cos'è una società di calcio, a che disciplina deve essere sottoposta, che tipo di rapporti deve avere con i suoi impianti e con gli enti istituzionali che fanno lo sport e tengono gli impianti in mano nel nostro paese, oppure secondo me il calcio è stato squilibratissimo. Lo dico, Luca, perché poi molta gente dice: ah, il nostro è un campionato iper squilibrato, ci sono 3-4 grandi club tra cui c'è il tutto, certo, della lotta e il resto no, però dietro c'è un sistema i cui fondamenti e le cui definizioni giuridiche, le cui prassi economico-finanziari sono state pesantissimamente influenzate da quelle decisioni politiche. Io mi auguro che presto o tardi si creino le condizioni, non so come la pensa Laurentiis, perché gli attori istituzionali e politici possano rimettersi a un tavolo e capirle queste cose. Guardi, io le faccio una domanda: basterebbe o non basterebbe che la Federcalcio facesse il suo lavoro? Nella Federcalcio esistono la Covisoc e la Coavisoc, che devono esaminare i bilanci per la possibilità di iscriversi al campionato. Come mai che io ogni volta che dico: ma scusatemi, avete controllato perché il Parma è fallito, perché ci siamo andati di mezzo tutti, ma non lo sapevate, la Coavisoc vi aveva avvisato per ben due volte? La risposta è: caro De Laurentiis, se noi dovessimo fare il nostro dovere non si iscriverebbe più nessuno e non esisterebbero i campionati. Ti pare poco. E una cosa, Oscar, perché lo dicevamo prima, notizia del giorno è questo attacco durissimo della Presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi, che dice che bisogna fare qualcosa per togliere, perseguire le tifoserie violente, l'infiltrazione della politica nelle curve. De Laurentiis ha appena detto, anzi lo ripetiamo ancora meglio: a me basta il modello inglese, severità, rigore, ordine. Ma lo dico e fine degli hooligans, della violenza. Eh beh, è vero che lo dice il Presidente della Repubblica da 10 anni, ed è vero che quel modello ha... Perché non si riesce a fare però? Chi è che lo non impedisce? Non mi va di dire certe cose che non si possono dire. Questo, purtroppo, cioè l'Italia è un paese omertoso e non a caso siamo il paese con più organizzazioni di stampo mafioso esistenti al mondo. Quindi come mai che lo Stato non riesce a far sì che questo sia veramente il bel paese? Come mai questo paese che dovrebbe inventare e esportare le mode del saper vivere, del sapersi vestire, della cultura, della storia? Ma secondo lei è la politica che non vuole, è la politica che non vuole, o il questo calcio che non vuole? Lo pensi lei? No, che c'entra il calcio? Qui stiamo parlando di un paese, non stiamo parlando di calcio. Lei mi spieghi... Gli americani sono sbarcati in Italia grazie alla Chirusciano, poi da lì è successo la qualunque, quindi io non so che cosa dirle. Allora, De Laurentiis, sono juventino, scrive Jean-Claude, vogliamoci al bene, almeno un po', amo Napoli, su via. È un messaggio di pace. Ne importante. Senta, però voglio farvi litigare. Ma sa perché Giannino... gli juventini sono tutti dei sudisti, no? più o meno, perché nasceva a Torino nella fabbrica Fiat, e quindi Agnelli è stato molto intelligente di dare questo pane circense, no, ai propri operai della Fiat, che poi venivano da tutto il resto dell'Italia, e questa è stata una tradizione che poi è durata, perché i veri torinesi poi hanno sempre tifato il toro. Esatto, ma lei ce n'ha uno davanti, parole la prossima partita è Torino-Napoli. Adesso qua deve scorrere il sangue, vuole darlo un pronostico a Giannino, vincerà il Napoli. Giannino, che facciamo? No, ma che facciamo? Beh, no, io, guardi, io sono un torinista realista, quindi i valori in campo sono quelli passare. Che sono, no, mettiamo lasciare passare. La ecco, dovrete mettere la freccia, ecco, okay. Giusto, e meritarla sul campo. Ah, quello sempre, infatti, la legge del campo. Io nella vita non ho mai voluto regali da nessuno. Tutto qui, tutto. Ma che opinione si è fatto di Torino-Lazio, con la Lazio che dice vogliamo ritirarci al campionato? Vabbè, queste sono poi delle esternazioni che capisco vengono fuori a caldo, perché poi la tensione sportiva fa salire la pressione, no? E quindi uno poi apre la bocca e gli dà fiato. Ma diciamo che la VAR forse esiste, bisogna applicarla, bisogna che gli arbitri non abbiano paura di arbitrare con l'aiuto della VAR. Perché mi sembra che ultimamente questa VAR sia stata un pochettino sottomessa all'ignavia e al silente comportamento arbitrale. Massimo, ho sentito cosa dice De Laurentiis del caso Donnarumma, ma fosse capitato a lei come si sarebbe comportato? Ma lui non succede. No, scherzo. La domanda è come si sarebbe comportato se fosse successo con un suo giocatore, immagino. Questa domanda che ci arriva da Massimo via SMS. Ma non ho capito la domanda. Dice, ho sentito cosa dice del caso Donnarumma, ma se fosse successo a lei, cioè se lei fosse stato la società di un giocatore che se ne vuole andare, come si sarebbe comportato? Ma l'avrei saputo prima e forse... Veda, quando Lavezzi venne da me dicendo che voleva andare via, io dissi, adesso tu stai calmo, stai tranquillo, ti comporti da giocatore del Napoli, stai un altro anno con noi, e se io riuscirò a piazzarti da qualche parte che a te vada bene, al prezzo corretto e giusto per il quale io ti devo piazzare, vai. Andrei via, altrimenti rimani a Napoli. E lui, obtorto collo, quindi la società può avere la forza di fare questo. Ma la società deve avere la forza, dipende da come fai i contratti. Vedi, i miei contratti nascono dal cinema e sono di 120 pagine. Poi gli altri cercano di farli con il lapis su due pagine prestampate, stile tipografia corvo, una scrittura, no? La clausola rescissoria che ha inventato lei in Italia, loro l'hanno fatta su una scrittura, non l'ho privata io, ma insomma, vabbè. Loro l'hanno fatta a parte su una scrittura privata, per questo c'è anche contendere in questa vicenda. Va bene, allora ricordiamoci, c'è anche un villaggio, ne parlavamo prima, costruito a Cinecittà, ce lo ricorda per cortesia Luigi, che sarà, c'è la scenografia, c'è la neve finta. Portateci, è un super bambini e le famiglie. Sì, da ieri abbiamo aperto a Cinecittà questo villaggio di Natale bellissimo, dove c'è stata anche l'anteprima per tutte le famiglie, dove che potranno visitare il villaggio e vedersi il film dentro un teatro di posa, quindi una cosa molto bella, anche molto singolare, e i bambini si potranno divertire tra neve finta, chalet ricostruiti e questa volta però montagna. Ci deve essere a mare Milano, che non ha un villaggio suo, magari su un grattacielo, su un bosco verticale. L'anno prossimo rimediamo quello del bosco verticale, se ci mettiamo un po' di neve può essere un'idea. Vedi, è nata già un'altra trovata. Allora ringraziamo i De Laurentiis, li salutiamo, ci sono già le vostre telefonate. Saluto Alessandro da Trento, buongiorno, è lì? Sì, Alessandro, sono qui. Buongiorno. Lei di che cosa vuole parlare? Ma io volevo tornare un attimo sul caso di Fiorello. Ah, certo, la vittoria di Fiorello. Allora si fermi là, pubblicità e torniamo insieme. Saluti De Laurentiis. Mi raccomando, buongiorno. Super vacanze di Natale. Mattino. I cani e i gatti, le vostre telefonate all'800 24 00 24, tanto di cui discutere con me e con Oscar oggi. I temi più importanti: il caso Boschi, l'approvazione della legge sul fine vita e ovviamente tutto quello che vi può passare per la testa. Come sempre, Alessandro da Trento era in linea perché vuole intervenire sul tema che ha appassionato me e Oscar Giannino ieri, cioè questa vittoria di Fiorello che ha potuto dimostrare che non doveva pagare l'IRAP perché non era un'impresa. Quindi immagino che Alessandro voglia parlarci dell'IRAP. Buongiorno di nuovo. Sì, buongiorno. Effettivamente, ecco, dal mio punto di vista, il caso di Fiorello è emblematico. Qual è il suo punto di vista? Artista, commercialista? Professionista. Ah, professionista, ecco. È del percorso tortuoso che un cittadino deve fare per ottenere vittoria delle proprie ragioni. Nel caso specifico, Fiorello ha regolarmente pagato le proprie imposte, pur cosciente che non erano dovute, ha chiesto il rimborso, ha dovuto difendersi, immagino, in tre gradi di giudizio, certo, pagandosi le relative spese, prima di ottenere il rimborso di quanto ingiustamente aveva pagato. Questo è il modo in cui, evidentemente, Fiorello è un personaggio pubblico. Lei però dice che l'IRAP è ingiusta solo nel caso di Fiorello o non le piace, no, proprio come imposta? No, è che è il simbolo di è il caso emblematico che rappresenta tanti altri casi che non sono evidentemente così noti, ma dove il cittadino è costretto a un percorso tortuoso e costoso le proprie ragioni, proprie spese. E comunque, Alessandro, insomma, la giustizia tributaria nel nostro paese non aderisce ai principi del giusto processo e dell'articolo 101 della Costituzione, e così purtroppo è così, nel senso che è organizzativamente così. I giudici da cui è amministrata dipendono dal Ministero dell'Economia, che è il soggetto a nome dei quali si esercita la pretesa impositiva, come può essere un giudice terzo quando dipende da questo. E poi, perché il procedimento, per sederti al procedimento nel contenzioso, devi comunque mettere sul tavolo un terzo di quello che lo Stato ti chiede, a prescindere se il contenzioso è proprio, se lo Stato abbia titolo per chiedertelo oppure no. Sono tutte caratteristiche ordinamentali, e quello che dice lei ha ragione, ma secondo me la vicenda di Fiorello è emblematica per un'altra ragione, oltretutto, per molti professionisti e lavoratori autonomi la pretesa dello Stato di farti pagare l'IRAP è una pretesa incardinata sul fatto che tu abbia una stabile organizzazione, cioè dei collaboratori stabili che stai mentendo sul fatto che non li hai. Poiché per moltissimi non è così, moltissimi si sono trovati nella condizione di dover pagare e poi fare il percorso che ci ha detto l'ascoltatore. Quindi il caso di Fiorello, il caso di Orietta Berti, che in questo per esempio era uguale, sempre per l'IRAP e per la stabile organizzazione, capita a molti degli autonomi e professionisti, ed è emblematico del fatto che l'individuazione della stabile organizzazione in Italia è presuntiva, per così dire. È la stessa cosa, in grande, enorme scala, non paragonabile, che avviene col tentativo di fare la web tax pagata sul fatturato per importi ad ammettere che hai una stabile organizzazione anche se non ce l'hai. E cioè la difficoltà dello Stato di individuare basi imponibili se non inventandosele. Ecco, questo punto non è una polemica, è un fatto proprio ordinamentale. Quindi grazie per averlo notato al nostro ascoltatore. Non è solo perché Fiorello è una persona nota, però il fatto che a persone note capiti di vincere patteggia il conto, lo pareggia, voglio dire, rispetto al fatto che lo Stato le sbatte in prima pagina dicendo: eccoli là, li stiamo punendo, vedete che sono loro i veri evasori. Allora, ringraziamo e salutiamo Alessandro. Abbiamo con noi Mario Lavia, buongiorno, voce della stampa del Partito Democratico, ricordiamo il suo impegno con Unita.it, con Democratica. Allora, Mario, volevamo chiedere a te una valutazione oggi su quello che apre tutte le pagine di tutti i giornali. Il titolo del Corriere della Sera è: riesplode il caso Boschi. Il fondo di Franco, che leggevo prima, dice: un doloroso boomerang. Ha fatto bene la Boschi ieri a prendere di petto e andare con il suo, come dire, uno dei suoi contestatori più acerrimi, Marco Travaglio dalla Gruber? Secondo me sì, perché insomma, se c'è un'ombra, se c'è un'accusa, se c'è, uno deve difendersi, deve argomentare, deve spiegare quali sono le sue ragioni, e nell'epoca contemporanea la televisione è diventata il veicolo essenziale per poter fare questo. Insomma, in altri tempi sarebbe stato un giurì d'onore, adesso è la televisione. Quindi secondo me lei ha fatto bene. Peraltro io penso intanto una cosa in generale sulla commissione, perché si dice la commissione quindi, banche, no? La commissione sulle banche, cioè il PD ha fatto male a volere la commissione sulle banche perché si sta rivelando un boomerang. Io penso che uno fa una commissione quando ci sono da chiarire le cose. Se il PD non avesse fatto, non avesse spinto per fare la commissione, si sarebbe detto giustamente: ecco, il PD vuole nascondere le cose. Invece secondo me il fatto che si faccia una commissione, si faccia luce sui problemi è una cosa utile, anche se questo dovesse per ipotesi ritorcersi contro chi l'ha messa in campo. Ecco, quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa è che secondo me nel merito del faccia a faccia di ieri, insomma, Boschi ha detto una cosa secondo me giusta, sulla quale mi pare gli avversari... Cioè che Travaglio la odia, no? No, la cosa giusta è che lei non ha mentito al Parlamento, perché l'accusa è che lei ha mentito al Parlamento, no? Che poi è l'arma polemica che serve alla Lega, a Speranza, per dire si dimetta. Lei non ha mentito al Parlamento perché il Parlamento non disse affatto, io non mi sono occupata di Banca Etruria. Lei nella qualità di ministro, di parlamentare, si è occupata di Banca Etruria. Il problema è se lei ha fatto delle cose per agevolare il padre o la banca stessa o se medesima. Questo a tutt'oggi non risulta. Mario, posso farti una domanda? Anch'io credo che tecnicamente uno legge l'intervento fu pronunciato in Parlamento dalla Boschi con grande attenzione e infatti secondo me non è materialmente contraddetto da quanto ci ha rivelato Vegas, che però ha la sua importanza, perché la domanda che ti faccio io è questa: se fosse di un altro partito e non del tuo, il componente di un governo che ha un rapporto con un amministratore, con una banca, e che potendo legittimamente farlo, come tutti gli uomini politici, gli uomini di governo si occupano delle vicende economiche e delle preoccupazioni che possono avere a seconda delle loro idee, se una banca che è in grande difficoltà debba essere sposata a Vicenza o altrove o mandata in risoluzione, però se fosse un esponente di un altro partito con un padre amministratore, tu non diresti che c'è una questione non di violazione di legge, no, ma di opportunità a non farli quei passi? Tutto qui. Ma su questo si può discutere. Io, guarda, posso anche capire il senso della domanda. Soprattutto mi interrogo sul fatto se il padre della Boschi, essendo stata nominata ministro, la figlia forse poteva evitare di diventare vicepresidente. Questo è tutto oggetto di ognuno ha la sua opinione. Però siccome qui diciamo, facciamo del giornalismo, poi diciamo la verità, facciamo tutti anche un po', tra virgolette, politica, il punto politico mi sembra quello del conflitto di interessi che secondo me non sussiste. E questo è il punto di attacco alla Boschi, dal quale secondo me la Boschi si sta difendendo bene. Cioè il conflitto di interessi di Maria Elena Boschi non esiste. Questa è quello che mi sembra oggettivamente stia venendo fuori. Poi dopodiché l'opportunità, la forma, la gradevolezza della... Però se anche tu dici il padre... Scusami, Mario, ma se anche tu dici il padre non era opportuno che diventasse presidente, il motivo per cui lo dici è perché c'è un conflitto di interessi, no? Sì, ma questo appartiene alla sfera, diciamo, del gusto, delle, come posso dire, dell'estetica. È un fatto di opportunità. Io personalmente, se mia figlia diventa ministro, cercherei tendenzialmente di non fare l'amministratore di alcunché. Però poi questo appartiene al signor Boschi, non mi pare una questione politica questa, appartiene alla sfera delle opportunità sulla quale ciascuno può avere le sue opinioni. E io penso anche che, ecco, l'ho detto, se fossi stato io, il signor Boschi non avrei fatto il vicepresidente della banca. Perché secondo te la Boschi era stata, dice lei che sicuramente sarà vero, Vegas l'aveva invitata a casa sua? Ah, non ho più pallida idea di questa cosa della casa, perché a casa sua non lo so, e francamente non lo voglio sapere. Lei voleva dire una cosa che poi non è che sono i fatti, cioè che fra lei e Vegas ci sono stati diversi contatti, come fra lei e Ghizzoni, per esempio, ci sono stati, nessuno nega questi contatti. Quello che gli avversari della Boschi sostengono è che la Boschi non poteva avere questi contatti, e questa a me mi sembra una follia. Perché però un ministro, posso un dirti solo una cosa, aspetta, ti interrompo solo per farti riprendere il ragionamento. Tutto questo appesantimento, tutta questa coltre di faccenda che riguarda i rapporti tenuti dal componente del governo Boschi hanno a che vedere con un inizio, però, la reazione, come sai, al passaggio del libro di De Bortoli, in cui in quel passaggio si diceva semplicemente che aveva parlato con Ghizzoni per vedere, ma non è che Unicredit può fare qualcosa. E la reazione fu tale che sembrò dover indurre l'idea: non me ne sono mai occupato, ma di che cosa stiamo parlando? Che è un po' diverso da come la vicenda si dipana me ne sono occupata con Tizio, con Caio, con Sempronio, e questo fa parte della normalità delle attività che svolge un uomo di governo. Capisci che da come è nata, Mario, la vicenda, la linea che poi è stata assunta, c'è una certa differenza. Distinguiamo le due cose. Allora, un conto è dire che è assolutamente legittimo che un ministro, qualunque sia il suo dicastero, perché quest'altra follia che con il presidente Agostop ci può parlare solamente Paduan, cioè non mi sembra una follia, qualunque ministro può parlare con il capo della Agostop, questo è un fatto normale, cioè, un ministro anche un parlamentare. Beh no, però sono molto attenti alle competenze, voglio dire, se uno sorpassa Calenda e fa il ministro della cultura e si mette a parlare dell'Ilva, Calenda si arrabbia. Non è proprio così. Ricordiamoci che abbiamo molti precedenti, abbiamo proprio il precedente. Non è assolutamente così. È capitato anche in altri governi. Cioè, un ministro parla, poi quello è il ministro delle riforme, dei rapporti col Parlamento, non è che era proprio il ministro dell'agricoltura. Cioè, secondo me è legittimo che lei parlasse con Vegas, con Ghizzone e con chi gli pare. Il problema è quello delle pressioni, cioè se lei in qualche modo ha fatto delle pressioni o ha messo in atto qualche cosa che potesse indurre o Vegas o Ghizzoni a fare qualche cosa in favore di Banca Etruria. Faccio questo ancora l'avvocato del diavolo, Mario, e ti chiedo, scusami, ma se tu sei membro di un'autorità o di un consiglio di amministrazione di nomina governativa, no? E arriva un ministro e ti chiede una cosa, un ministro che fra l'altro non ha quello come stretta materia di competenza, però è anche il ministro forte di quel governo, più vicino al Presidente del Consiglio, non è che il confine fra pressione e suggerimento è molto labile, cioè ovviamente tu capisci che è una cosa che a quell'esecutivo sta a cuore, no? Ed era questo che diceva Ghizzoni nel famoso libro di De Bortoli, Poteri Forti. Ma l'ultima cosa che ti chiedo, perché allora la Boschi ha avuto una polemica con De Bortoli? Quindi stai dicendo che lei non poteva parlare con Ghizzoni o con Vegas. Cioè, un ministro non può parlare col presidente della Corte, questo state dicendo. Sto dicendo che sto applicando quello che hai detto tu, cioè un ministro che ha un padre che diventa vicepresidente di una banca, è ovvio che quando parla di quella banca, è ovvio che quando parla di quella banca il suo interlocutore capisce che gli sta molto a cuore questo problema. No, è matematica. Ma non per il padre, anche perché sta nel suo collegio elettorale, si occupa di un problema. Un ministro si occupa di un problema. Io non vedo francamente la cosa, che lei abbia addirittura, quello si sta facendo credere, Travaglio ieri ha insistito molto su questo aspetto psicanalitico, e cioè che il fatto stesso che un ministro parli col presidente della Corte, il presidente della Corte ha le spalle larghe, non è che se un ministro gli parla lui si mette paura ed è soggiogato dal ministro che gli ha parlato, ma cerchiamo di essere... Va bene, sappiamo che devi lasciarci per un impegno, se puoi restare dopo la pubblicità noi siamo contenti. 800 24 00 24, c'è già una chiamata, tante chiamate, pro, contro. Adriana da Roma, resti un attimo in attesa e ci vediamo fra pochi secondi. Allora, sul fine vita, sulla Boschi, sulla Bindi che parla del tifo violento negli stadi e delle infiltrazioni fasciste, potete chiamare su quello che volete. Adriana a Roma, di cosa vuole parlare? Adriana è caduta, la richiamiamo subito. Che dici, Oscar? Hai osservazioni? Hai letto anche l'intervista della Boschi a Repubblica? Sì, come ovvio, ho fatto il mio dovere. Io continuo a pensare che l'inopportunità sia un problema politico e adesso penso che semplicemente da questa vicenda ce la trasciniamo fino a dopo le elezioni, perché tanto ognuno ribadisce il suo punto di vista e sarà pura corrida. È ovvio che siamo all'incomunicabilità fisica dei corpi, perché la risposta è sì, ci sarà forse una questione di opportunità, però non è una violazione di legge, talché a quel punto ognuno resta la sua opinione. Ecco, io la penso francamente così. A me interesserebbe poi, al di là della vicenda di cui non certo non sottovaluto l'importanza politica, però dedicare qualche 5 minuti anche al fatto che ieri il Presidente della Consob ci ha raccontato la Banca d'Italia ha un altro obiettivo, la stabilità, può fare quello che vuole, può non dirci quello che vuole e resta nel rispetto della legge. Ecco, io direi che questa roba va cambiata, ho detto mille volte come in Germania l'equivalente della Consob della Banca d'Italia, cioè la Bundesbank e BaFin, sono tenute per legge a 3 livelli diversi di cooperazione, il che significa che se ci sono guai non possono dire l'uno separato dall'altra poi di fronte a una commissione d'indagine, no, io sono nella legge se non dico all'altro quello che faccio e quindi poi l'altro non interviene. Ecco, è un paese ridicolo l'Italia in cui i capi delle autorità di mercato vanno a rendere conto di quello che fanno e dicono ma che c'entra, e noi per legge mica dobbiamo cooperare, noi per legge mica ci dobbiamo dire le cose, noi per legge mica dobbiamo essere in condizione di fare interventi efficaci, e il problema è che a quello non reagiamo. Anche perché, lasciamolo dire Luca, ci prendiamo tutta l'attenzione solo per la parte politica dello scontro, la parte politica che è importantissima, perché ovviamente anch'io ritengo che Mariana Boschi è una questione di opportunità, è stato uno dei problemi che rendono Renzi zoppicante su questo, è inutile non vederla la faccenda, però dal punto di vista ordinamentale poi lasciamo tutte le cose come stanno, continueremo ad avere Consob e Banca Italia che non solo non si parlano, ma che per legge possono dire ma io non devo parlare con lui, e quindi se poi succede un guaio che volete da me? Che cavolo di paese è? Punto. Adriana da Roma l'abbiamo recuperata, anche per cortesia e giustizia. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta fra cani e gatti. Grazie. Dunque, io sono... diciamo che non mi interesso di politica. Però ieri sera ho visto la trasmissione, la 7, con Marco Travaglio e la Boschi. Sì, 8:30. Al di là di chi ha ragione, non mi interessa su questo, però mi ha dato molto fastidio che Marco Travaglio abbia detto alla Boschi chiudi il becco. Io come donna mi sono sentita offesa, meglio evitare queste cose in televisione, è brutto. Ma perché comunque chiunque usasse questa frase o lei ha ravvisato del sessismo, no? Anche se lo avesse detto a un uomo. Un pochino, non lo so se c'era un uomo l'avrebbe detto la stessa cosa. Pure, sì, non si può. Lei non ha risposto perché è molto, cioè, però mi ha dato fastidio. Io mi sarei aspettata una risposta dall'onorevole Boschi. No, ma avrà lasciato niente. Cadere perché secondo me chiudi il becco non vuol dire sei un'anatra o una papera, una gallina, vuol dire chiudi il becco è gergale, è come dire taci, stai zitto, cioè non c'è un'intenzione. Posso aggiungere, signora, di un riferimento io sono animale, d'accordo che chiudi il becco non è un buon argomento, però sì, attenzione signora, il non reagire, no su questo sono d'accordo con te Luca, non è questione discriminatorio, però come stilema in televisione chiudi il becco, però attenzione signora, lei deve capire una cosa, deve capire, no, accetti questo suggerimento, però magari non la convinco, per chi in televisione laddove si va a una sfida diretta, era una corrida quella di ieri, cioè c'era un aspirante toreador, un grande match, infatti sono d'accordo, però tra gli dico, la Boschi ha detto se fossi un uomo non mi parleresti così, se fossi così, un uomo non mi parlerei così, l'ha detto, ma voglio dire solo alla nostra ascoltatrice che lamentava il fatto, mi sarei aspettata che la Boschi avrebbe reagito, attenzione, il codice di questo scontro senza esclusione di colpi in cui conta come muovi il sopracciglio prima ancora di come parli, perché la televisione è implacabile in questo, a differenza della radio in cui contano solo gli argomenti e la voce, implica però questo signore, se uno ti dice chiudi il becco in televisione è un po' il contrario di quello che è sembrato a lei, può essere anche l'espressione di uno che è per così dire rimasto in difficoltà con gli argomenti logici e allora ricorre a una forza, diciamo, più carica di forza che di espressività argomentativa. In quel caso, se sei abile, qualcuno ti dice chiudi il becco, può non valere la pena rispondere sul chiudi il becco e fare una faccia che dice beh vedi che non hai i migliori argomenti, cioè la televisione in questo a saperla fare signora non pretende una risposta ogni volta che uno ti dice chiudi il becco, perché può segnalare a chi è a casa che sei in vantaggio tu e non lui. Signora è lì? Infatti a me ha dato quella vede cioè ha perso Travaglio su questo. Bene, c'è un grande dibattito ormai, è anche il metadibattito, cioè il dibattito sulle esatto. banche e il dibattito sul dibattito sulle banche. Ma io posso dire che voglio dedicare però un minuto, visto che il biotestamento, io sono contento, rispetto chi pensa che invece il nostro corpo, la nostra vita non è disponibile, io penso che di fronte all'infinita sofferenza avvio il biotestamento e ringrazio tutti quelli che sono andati a fare per questo, però proprio per questo l'inno alla vita, quella pagina meravigliosa del Corriere della Sera con le due sorelle siciliane, Dedè e Fifì di 112 e 106 anni che hanno preso la patente, hanno iniziato ad avere una vita piena di vita attiva dopo la pensione e a 90 anni dandosi da fare per cose pubbliche. Beh, insomma, viva la vita di De Deffi, possiamo dirlo, Luca. Allora, il pensierino finale, proprio sullo spunto di quello che mi dici, lo dedico io a quella foto, la Bonino con la berretta in testa, sì, le lacrime. Non bisogna dimenticare che la Bonino è stata malata, è malata, combatte contro una malattia. Si può pensare quello che si vuole, ma quando si dice che i politici sono tutti uguali, tutti imbroglioni, no, perché qui quelle lacrime sono verità. Uno può pensare quello che vuole a Bonino, può non votarla mai. Bravo. Ma sono lacrime. Come le lacrime del PM Tiziana Siciliano nel processo. Bravo, di J. Fabo. Stupendo. Che io conosco Tiziana Siciliano, è una donna straordinaria, è un grandissimo PM, e quelle lacrime sono l'umanità di tutti coloro che di fronte alla morte con sofferenza capiscono.